gente che saluta solo con i guanti. E qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao Como, chi vi parla al microfono è di nuovo Andrea Paolo di Allineamenti. La scorsa settimana siete stati molto fortunati perché ero in Serbia e avete ascoltato sicuramente qualcuno più bravo di me. Questa settimana invece vi dovrete accontentare perché vi racconterò alcune esperienze che ho vissuto a Belgrado. La primissima esperienza è stata spettacolare. È iniziata, come potete aspettarvi, con un problema. Il tour guidato prevedeva la necessità di prendere un autobus per spostarci nel quartiere di Zemun, un po' lontano rispetto al luogo di ritrovo, e noi turisti avremmo dovuto arrivare con un biglietto valido per l'autobus. Soltanto che nessun chiosco aveva questi biglietti che sembravano introvabili. Lo diciamo alla guida, che ci spiega come chi lavora nei chioschi magari lavora 8 o 10 ore ed è pagato 200, se va bene 300 euro al mese. Quindi è normale che questi lavoratori siano demotivati e non abbiano voglia di servire i clienti. Magari i biglietti ce li avevano, ma non ce li davano. Allora la guida ci dice, senza troppa convinzione, che prenderemo il biglietto sull'autobus. Arriva l'autobus, saliamo e l'autobus riparte mentre ancora la guida sta parlando all'autista per cercare di ottenere i biglietti. La guida infatti, pur comprendendo l'atteggiamento di chi, sottopagato, non si dà da fare, non era affatto contenta del fatto che l'autista non raccogliesse i soldi del biglietto dai turisti, perché quei soldi servono allo Stato e i turisti sono i primi a dover contribuire. Allora Zelko, questo è il nome della guida, parla con l'autista e poi ci racconta la situazione. In pratica l'autista gli ha risposto che la possibilità di pagare il biglietto c'è, ma non è proprio indispensabile che non lo paghiamo. In sostanza abbiamo viaggiato gratuitamente. Appena scesi, Zelko ha raccontato di come l'autista guadagna normalmente 350 euro. Questo mese era arrivato a 400 perché aveva lavorato durante dei giorni festivi. Dandoci i biglietti durante il tragitto, l'autista avrebbe guadagnato circa 3 euro. L'autista guadagna forse un decimo del prezzo di vendita di ogni biglietto. Quindi vi chiedo, se fosse stati voi nella situazione dell'autista e vi dicessero che potete guadagnare 3 euro per un lavoro di 5 minuti, come quello di distribuire 10 biglietti e ritirare i soldi, come vi comportereste? Beh, Zelko ci ha raccontato come in Serbia la popolazione è sopravvissuta ai bombardamenti, alla mancanza di cibo nei negozi, alla fame, e quindi per loro la vita è molto più importante di un biglietto dell'autobus o del guadagnare 2 o 3 euro in più. Me l'ha confermato anche la direttrice dell'ostello. Proprio perché sostanzialmente tutti sono poveri, il denaro non è importante, oppure lo è molto di meno di quanto lo è per me o per tanti altri di noi. Ora ascolteremo un brano musicale e poi continueremo. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. The places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above. Bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Verso la fine del giro guidato con Zelko, la conversazione è caduta sui bombardamenti NATO del 1999 e Zelko ha raccontato come gli esponenti NATO che hanno deciso il bombardamento di Belgrado per difendere apparentemente i kosovari, quelle persone si trovano ora alla guida di aziende che sfruttano le materie prime del Kosovo, un nome su tutti, Tony Blair. E che chi ha sostenuto l'indipendenza e autodeterminazione del Kosovo, per esempio lo spagnolo Javier Solana, poi è contrario all'autodeterminazione della Catalogna. Coincidenze? Ne è vero? Però l'argomento dei bombardamenti NATO sarebbe stato oggetto di un altro free walking tour, quello sul comunismo. Per cui ora vi auguro una buona notte. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.